fai gesti per condire parole d'amore. Ammiro i vestiti che indossi di giri che avvolgono i miei sguardi. Ti seguo e mi incanti. L'amore è musicista, la strofa entra in testa e ovunque è festa senza perché la sua poesia resta. La musica non cessa e tutto intorno danza. Non ti fermare, nel cuore mio canta per me, canta. Annuso le tue rose, cammino sulle spine, intreccio le tue spighe, profumi di ortiche. Ammiro i tuoi occhi che disegnano il confine. Ai bordi di quel fiume il tuo corpo si muove. L'amore non si stanca, saltella su una gamba, sta dritto in piedi dovunque sia al centro di una stanza. Fa una piroetta, l'amore ha sempre fretta, dovunque impazza, liscio, casca e danza per te, danza. Adoro le tue pose, le tue guance confuse, mi rendono felice se sono più rosse. Ammiro le tue gambe e brilla il tuo diamante, mangusta Dio serpente, mia stella d'oriente. L'amore è sulla pista, nemmeno una sosta, e spesso cade, si alza, però non dice mai basta. A volte è una tempesta, a tratti una bonaccia, cerca una riva, prode, poi via senza perché salva. Amore, lo sai che non me ne andrò, non cerco un addio, non fuggirò. L'amore sulla scena, sotto la luna piena di una commedia, tanta allegria finisce in tragedia. Fa una giravolta in una rima sciocca, brindiamo insieme prima che la sua spuma trabocca. Giostra, un giro e poi basta, non ti